Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Gli dobbiamo fare una trasfusione. Una trasfusione? Dobbiamo reintegrare il sangue che ha perduto. Stiamo lottando come possiamo per tenerla qui con noi. Mi serve qualcuno che doni il sangue. Sono passati quasi due secoli da quando nel 1818 un medico inglese eseguì con successo la prima trasfusione di sangue da braccio a braccio. Il donatore e il ricevente erano marito e moglie e per l'intera durata dell'operazione dovettero rimanere vicini vicini per permettere al sangue di passare da un braccio all'altro. Sono passati 200 anni, ma la storia si ripete, anche se con modalità differenti. Non è più necessario restare vicini vicini, però ci sono scorte pronte per essere utilizzate in caso di bisogno. Ma di sangue ce n'è sempre bisogno, per questo c'è sempre bisogno di persone pronte ad allungare un braccio. In linea con noi è tornato a trovarci il dottor Aldo Ozzino Caligaris, buongiorno. Buongiorno dottoressa Carbone, buongiorno agli ascoltatori di Radio 24. Coordinatore pro tempore del CIVIS. Il CIVIS è il, mi dica se è corretto, il coordinamento interassociativo volontari italiani del sangue, che riunisce le quattro principali associazioni e federazioni dei donatori del sangue volontari, e quindi l'AVIS, la CRI, la FIDES e la FRATRES. Esatto. Dottore, c'è bisogno di sangue sempre ed in estate in modo particolare. Il consumo di sangue d'altronde è in continua crescita, però questo è un dato che è di per sé molto positivo, perché si può spiegare con il miglioramento delle cure, della qualità di vita dei malati. Pensiamo ad esempio al trattamento dei traumi gravi, alle malattie congenite del sangue, l'anemia mediterranea ad esempio, agli interventi chirurgici che sono complessi, raffinati, come i trapianti di organo, agli interventi di emergenza. Insomma, dottor Ozzino Caligaris, il sangue è necessario, donare sangue è un gesto vitale e direi anche rivitalizzante, nel pieno senso della parola. Beh, indubbiamente. Intanto la cosa importante da dire, è, come già lei ha sottolineato, è che questa necessità di garantire e assicurare una buona sanità per i cittadini può partire esclusivamente da una buona medicina trasfusionale che si basa sulla donazione volontaria del sangue. A oggi noi non abbiamo altre possibilità di avere il sangue e i suoi componenti e dal plasma i medicinali plasma derivati se non attraverso un gesto di volontariato che è un gesto di donazione. Il sangue non si fabbrica in laboratorio, non si può avere attraverso processi industriali, l'unico modo di averlo è attraverso questo gesto di volontariato. Gesto di volontariato che quindi ha due aspetti che direi importantissimi. Il primo, quello del valore etico insito del gesto della donazione, cioè donare il sangue fa bene al donatore perché comunque mette nella condizione di essere consapevole di poter dare qualcosa di insostituibile per la vita e per la salute di un'altra persona, sì, che probabilmente non si conosce, quasi sicuramente non si conosce, come diceva lei, queste scorte sono a disposizione di chiunque. L'altro aspetto è quello che donare il sangue è un importante presidio per poter assicurare proprio una buona sanità erogata dalle regioni e quindi a favore di tutti i cittadini. Bastano 10 minuti di tempo, 15, dottor Ozzino Caligaris? Come donazione ci vogliono dei 10-12 minuti, il tempo per poter fare una presa di coscienza delle condizioni del proprio stato di salute, un'accurata visita medica per poter essere ritenuti idonei alla donazione del sangue, una valutazione di alcuni parametri fondamentali come il valore della pressione piuttosto che il valore della concentrazione dell'emoglobina, quindi qual è la percentuale dei globuli rossi per poter donare sangue intero e poi diciamo dopo questa attenta valutazione medica e clinica il donatore, se ritenuto idoneo, va praticamente in sala prelievi e si accomoda con tranquillità su una poltrona dove vengono prelevati 450 ml di sangue e in un tempo variabile di solito tra gli 8 e i 12 minuti al massimo. Dopodiché il donatore rimane qualche minuto in attesa ovviamente di una ristabilizzazione dei suoi valori pressori, fa una buona colazione e può tornare tranquillamente a svolgere le proprie attività quotidiane, le proprie mansioni. Chissà se tra gli ascoltatori di Essere Benessere c'è qualcuno che proprio stamattina ha allungato il braccio, come leggo nel sito di Fidas. Allungare il braccio è un gesto semplice, vitale, rivitalizzante, come abbiamo detto in apertura. Allora io invito le persone che donano il loro sangue, quindi allungano il braccio abitualmente, a chiamarci per raccontarci la loro esperienza, e invito in modo particolare chi magari proprio oggi ha fatto una donazione o ha fatto una prima donazione, può capitare, ce lo racconta in diretta, 800 24 00 24. Come sempre vi invito a seguirci su Facebook e su Twitter, o a scriverci, come state già facendo, al 349 238 6666. E qui in studio con me c'è un amico che allunga il braccio abitualmente, ed è Enrico Pagliarini. Ciao Enrico. Buongiorno, ciao a tutti. Che cosa ti ha spinto a diventare donatore? Poi tu sei un donatore medagliato. Medagliato, sì, e diciamolo. Sì. Eh sì, ho appena vinto la medaglia d'oro. Infatti mi hai invitato per questo, sì. O no? Certo, io ti ho invitato per questo, perché tu sei uno che allunga il braccio. Io sponsorizzo molto la donazione di sangue, poi spieghiamo quella che faccio io, che non dura 10-15 minuti. Sì, perché ci sono, si possono donare i vari componenti, ma poi lo commentiamo anche col dottor Ozzino Caligaris. Ma allora, un bel giorno, Enrico Pagliarini. Allora, era il 7 ottobre 1995, qui la mia tessera dell'Avis. Sì. Ho imparato oggi che ci sono addirittura 4 associazioni, non lo sapevo. Ma perché sapevo non che senti ce n'erano mai 2. Essere benessere? No, ne conoscevo dottor, due. Dottor Ozzino Caligaris, ogni anno ne parliamo? Sì. Allora, io essendo donatore... Vabbè, tu hai scelto l'Avis, che sì. Ottima scelta. L'importante è donare, non è importante a quale associazione si afferisce. Certo. Quindi qualsiasi sigla, ovviamente il fatto stesso di avere un coordinamento nazionale dimostra proprio che l'importante è conseguire gli obiettivi di garantire sempre e comunque una terapia disponibile. Sì. Allora, un bel giorno. Io ho iniziato a fare la donazione, ho fatto una donazione di sangue intero, poi sono passato direttamente a quella che io chiamo plasmaferesi, anche se in termini tecnici forse si dice aferesi, poi chiediamo al professore. Sì. Ma sostanzialmente perché andavano alcuni amici, sì. E quindi poi ho provato la prima volta, già comprendevo insomma l'importanza, poi anche il papà era nell'associazione, quindi mi ha un po' spinto, e dopodiché è un po' una cosa di famiglia. Sì. Allora, intanto voglio leggervi dei messaggi. Raffaella mi scrive: 10 giorni fa ho donato plasma e con me c'era una mamma donatrice accompagnata dalla figlioletta di 6 anni, molto carini. Un ascoltatore mi scrive: tutti i donatori che conosco per poter donare devono mentire sul questionario di idoneità, che escluderebbe di facto la totalità della popolazione sessualmente attiva. Ma no, Enrico dice subito di no. Ma io dico sempre la verità e non ho problemi. Infatti, dottor... Anzi, su certe cose dico, ci vorrebbe la casella magari. Dottor Ozzino Caligaris, mettiamo la casella magari, questa potrebbe essere un'idea, ma dottor Ozzino Caligaris. Sì, allora io intanto ringrazio Enrico e colgo l'occasione per ringraziare veramente 1.700.000 donatori di sangue che con il loro gesto quotidiano di volontariato, ma soprattutto di donazione responsabile, questo è un principio che bisogna assolutamente sottolineare, garantiscono veramente una scorta disponibile di terapia per gli ammalati e per i cittadini. E quindi un ringraziamento proprio in occasione di questa vostra trasmissione, di questo tema trattato. Peraltro c'è da dire che, come succede per Enrico, molte persone si avvicinano alla donazione, sì. E poi viene loro indicato dagli stessi medici e dal personale anche associativo che partecipa alla promozione della donazione del sangue, di fare delle donazioni proprio più su misura, che possono essere donazioni di plasma, piuttosto che la donazione soltanto di piastrine, o che sono quella parte corpuscolata del sangue che serve soprattutto per i pazienti in situazione emorragica, sì. O in trattamento oncologico, oppure le donazioni multicomponente, cioè si può donare soltanto una parte delle componenti del sangue, restituendo al donatore ciò che non è strettamente utile. E questo diventa una donazione su misura, che viene calibrata per gli uomini, per le donne, ma che serve soprattutto a contribuire a quello che è un fabbisogno nazionale, che ripeto, non è soltanto di sangue intero, non è soltanto di globuli rossi, non è soltanto di piastrine, sì. Ma è anche di plasma, che poi viene utilizzato attraverso il frazionamento industriale per produrre dei farmaci salvavita, come l'albumina, le immunoglobuline, i fattori della coagulazione, e quindi sono dei principi che non possono essere prodotti in altro modo se non estraendoli dal plasma donato. Enrico, tu sei riuscito a convincere amici a donare? Perché e a renderli donatori, come si chiamano, il termine abituale non è corretto, dottor Zino Caligaris, persone che regolarmente comunque periodici. Noi diciamo periodici o associati è l'ideale, insomma, perché l'associazione poi ha un plus valore, che è quello di garantire nella regolare programmazione concordata con le regioni, con i servizi trasfusionali, di garantire proprio l'afflusso dei donatori per il gruppo sanguigno, per il tipo di emocomponente che possono donare, e quindi far sì che il donatore possa donare ciò che serve, sì, e soprattutto che il gesto della donazione, proprio per il suo alto valore etico e morale, venga utilizzato nella maniera più corretta e non venga soprattutto sprecato. Questo sarebbe una cosa gravissima, cioè non mettere nella condizione di utilizzare al meglio un grande gesto di volontariato, un grande gesto dal valore morale ed etico e civico così strategico. Enrico. Ammetto che questo è un mio grande fallimento, perché ho ricevuto molto spesso delle risposte del tipo ci andrò, delle promesse, però devo dire che almeno tra le persone che conosco o che frequento più spesso, nessuna va con frequenza e regolarità a donare il sangue. Questo effettivamente è un peccato. Un aspetto su cui bisogna lavorare, e c'è chi proprio non dona, e è una sorta di pigrizia magari, no? Ci sono anche tante paure, oppure no, quei timori. Anche perché effettivamente, come diceva il professore, donare sangue intero, che forse è meno utile dal punto di vista della catena poi industriale del sangue, abbiamo sentito che poi il sangue viene spacchettato, quindi è forse più utile andare a fare quella che si chiama plasmaferesi e quindi donare le varie componenti, però effettivamente è un'attività, quella di donare il sangue intero, molto, molto veloce. Sai che leggevo sempre sulla FIDA, c'è uno slogan della campagna: ci vuole più coraggio a trovare una scusa che a donare il sangue. Avete scritto così. È vero. Ed è vero, perché tante volte si dice non ho tempo, lo farò un altro, questo poi ho un po'. Poi ci sono tutte le paure, le paure, la paura dell'ago, la paura del sangue. Chissà se di voi, c'è qualcuno di voi che proprio stamattina è andato a donare il sangue, magari per la prima volta, e vuole raccontarcelo all'800240024. Andiamo a Laura, che ci chiama da Roma. Buongiorno Laura, benvenuta. Buongiorno, stavo ascoltando e devo dire, io ho donato stamattina per la prima volta e l'esperienza è stata molto molto positiva. Io ho 25 anni, adesso mi trovo qui all'Isola Tiberina al servizio trasfusionale. Sì, quindi sta facendo colazione Laura. Sì, sto facendo colazione, ho terminato e sto facendo colazione. Questa è una delle cose belle, dice Enrico. Sì, questa è una cosa, ma devo dire che l'atmosfera, è proprio la sensazione di solidarietà che si respira all'interno dei servizi trasfusionali, io avevo sempre pensato di donare perché ho sempre pensato che fosse una cosa utile per gli altri. Sì. E qualche settimana fa ho accompagnato un amico in parrocchia dove c'era una raccolta di sangue e sono stata lì vicino a guardare. La cosa mi ha incuriosito ancora di più. Ho detto va bene, ma non è possibile che io mi faccia frenare un po' forse dalla paura, come dicevi, dell'ago, no? O comunque un po' dalla pigrizia. E allora ho preso appuntamento, ho preso un appuntamento telefonico e stamattina sono venuta a donare per la prima volta. E se tutto va bene, se sono idonea, continuerò. Sicuramente. Brava Laura, se sono idonea, ci ha detto Laura, dottor Ozino Caligaris, continuerò. Che cosa vogliamo spiegare quell'idonea? Allora, intanto complimenti a Laura per aver superato le sue ansie, le sue paure e per aver fatto la sua prima donazione. Benvenuta tra i tanti donatori periodici associati italiani. E poi sottolineiamo questo aspetto. Allora, ogni volta che il donatore dona, oltre a essere sottoposto accuratamente, come avrà fatto Laura, a una consulenza visita medica per essere ritenuta idonea a poter donare, sul sangue donato vengono eseguiti dei controlli molto accurati che si chiamano i controlli di qualificazione biologica. Che cosa significa? Che vengono eseguiti dei test per poter escludere ovviamente che attraverso la donazione, quindi attraverso il sangue donato e i suoi componenti, possano essere trasferiti al paziente, al ricevente, degli agenti infettivi. Si fanno quindi test per l'epatite B, per l'epatite C, per la sifilide, per l'HIV, si fanno le ricerche delle frazioni virali di questi virus proprio per far sì che il sangue sia sicurissimo, e devo dire che in Italia dal 2003 ad oggi fortunatamente non sono stati segnalati casi di trasmissioni di malattie infettive da donatore a ricevente, e questo è il percorso che abbiamo voluto in Italia seguire per poter assicurare proprio una terapia alla ai massimi livelli per i pazienti. In più vengono eseguiti controlli come esami ematochimici, l'emocromo, le transaminasi, proprio per vedere che le condizioni di salute del donatore siano ultra buone fino in fondo e far sì che quindi il donatore, attraverso la donazione, abbia anche un percorso per cui viene seguito il suo stato di salute, e in questo, da questo punto di vista possiamo considerare la donazione un ottimo strumento anche di prevenzione della salute, oltre che di controllo dello stato di salute del donatore stesso. Quindi tra i benefici che dicevamo all'inizio della donazione inserirei anche questo, che è un beneficio indiretto ma sicuramente utile come percorso di prevenzione e come percorso di monitoraggio di quello che è un osservatorio epidemiologico privilegiato, che è la popolazione dei donatori di sangue in Italia. Esatto. Diciamo, uno dona ed è tranquillo, perché se il servizio sanitario non interviene e dicendo guarda che non sei idoneo, tu stai tranquillo. Oltre alla colazione che dicevo prima, che non abbiamo sì, perché ci sono delle cose buonissime. Sì, ci sono delle sezioni che vanno in pasticceria e offrono delle brioche fantastiche ai donatori. Quindi, vedi come se la ride anche il dottor Zubitaligani. Dolce e salato indistintamente. Sì, una bella merenda metà mattina. Meraviglioso. Scusa Enrico, prego. Con grande abbondanza di fantasia, devo dire, e di piacere per i donatori, sì. Ricordiamo che per fare la donazione del sangue, Nicoletta Carbone, mi perdoni se faccio questa precisazione, perché molti si recano digiuni, soprattutto d'estate, sì. E questo non è bene, perché per andare a donare il sangue si può prendere un caffè, si può prendere un tè con un po' di zucchero, si può prendere un succo di frutta, si possono mangiare due fette biscottate. L'importante è non assumere altri cibi solidi, non assumere latte e non assumere cibi composti con i grassi. Quindi recarsi a donare il sangue non digiuni. Non digiuni, mangiate, bevete qualcosa. Sì, un caffè. Bevete un caffè, qualcosa. Un perché tè. Devi avere un po' di pressione per pompare il sangue. Enrico Pagliarini suggerisce il caffè, ma sì. Uno può prendere anche il tè verde piuttosto che un po' di zucchero. Insomma, qualche cosina e poi dopo la donazione dopo si festeggia. Si fa la colazione quella con i fiocchi. Allora, voi parlavate di sicurezza. Io vorrei parlare anche del donatore e sicurezza del ricevente. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Giuliano Grazzini, direttore del Centro Nazionale del Sangue. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti gli ascoltatori, agli amici e colleghi che sono in linea. Sì, perché noi un paio di volte all'anno ci incontriamo qua, certo, a Radio 24, proprio come tra amici, e parliamo dell'importanza della donazione del sangue, e con lei vorrei parlare di sicurezza. Voi avete tra l'altro fatto un'indagine, no? Sulla percezione. È stato ieri un importante incontro in Istituto Superiore di Sanità sulla sicurezza del paziente in relazione alla trasfusione, perché parliamo giustamente sempre di donatori, ma dobbiamo tenere presente che i riceventi, il dono, sono sotto la nostra attenzione più accurata naturalmente. E che cosa è emerso? Dunque, noi sappiamo che esiste un atteggiamento di paura nei confronti della trasfusione. Noi abbiamo fatto un'inchiesta dichiarata, proprio un progetto di ricerca di ordine sociologico, e abbiamo rilevato che ancora quasi una persona su due ha un atteggiamento di timore nei confronti della trasfusione. È vero che la trasfusione è un trattamento terapeutico come tanti altri, che in qualche modo può ingenerare qualche dubbio e qualche paura. Però io vorrei sottolineare, colgo l'occasione e ringrazio Nicoletta per darmi questa opportunità, per dire che, come ha già accennato il dottor Zino Caligaris, dal punto di vista infettivo sono quasi 15 anni che in Italia non abbiamo una trasmissione di malattie infettive gravi come l'epatite C, l'epatite B, l'AIDS. Questo grazie a delle politiche di test, di screening delle donazioni molto rigorose e molto accurate. Oggi praticamente il rischio che una trasfusione, il rischio teorico che una trasfusione possa infettare per l'epatite C ad esempio è di 1 su 10 milioni addirittura. Siamo, come gli americani ci dicono e come alcuni studi di confronto ci dicono, siamo nell'ordine del rischio di avere un incidente aereo, ecco, insomma, quindi sono rischi veramente teorici, mentre ancora noi ora ci stiamo interessando molto del rischio al letto del paziente. Al letto del paziente la trasfusione viene fatta da un medico e da un infermiere. Il medico e l'infermiere sono due soggetti umani e come tali sono passibili di errore. Quindi stiamo lavorando moltissimo per migliorare e per ottimizzare la sicurezza al letto del paziente. In Italia noi abbiamo avuto un caso di morte per un errore trasfusionale al letto del paziente ogni 3 milioni di trasfusioni. Siamo sempre su numeri veramente altissimi, quindi rischi comparabili al rischio di essere ucciso per un omicidio, da un delinquente per la strada per caso, oppure addirittura il rischio di essere oggetto di essere colpiti da un fulmine. Quindi sono rischi veramente molto bassi, però è evidente che sono tutte situazioni che noi dobbiamo tenere sotto controllo. Ecco, questo è stato lo studio, l'argomento di cui si è parlato ieri in questo importante convegno, di cui vorrei sottolineare un aspetto molto importante. Non erano presenti solo gli addetti ai servizi trasfusionali di tutta Italia, ma erano presenti le direzioni sanitarie degli ospedali, erano presenti i gestori del rischio clinico negli ospedali, erano presenti. Quindi c'è una rete attenta di sorveglianza che tutela il donatore e il ricevente. Esatto, a rendere il ricevente sicuro. Quindi il ricevente chi deve subire una trasfusione, una o più trasfusioni, deve essere consapevole che c'è una rete di professionisti che vegliano per loro, che cercano di ridurre al minimo, tendente all'azzeramento, l'errore al letto del paziente. Questo è il messaggio fondamentale. E noi proprio sottolineiamo questo messaggio. Intanto ringrazio il professor Giuliano Grazzini, direttore del Centro Nazionale del Sangue, per essere stato con noi. Grazie professore. Grazie a lei Nicoletta. Tu puoi confermare. Oltre che aggiungere, perché il professore parlava delle trasfusioni, dalla mia esperienza, lato donazione, c'è una precisione e poi anche una tecnologia oramai applicata a tutte le sacche, codici a barre, una tracciabilità incredibile, quindi direi che si può stare tranquillissimi. Io vorrei invitarvi, anche se pensate proprio di non donare, di pensare al vostro sangue, di raccogliere alcune informazioni. Ad esempio, voi conoscete il vostro gruppo sanguigno? Alcuni lo portano proprio inciso in una medaglietta, ad esempio, però molti non lo conoscono, o chi lo conosce ad esempio non sa quali sono i gruppi compatibili con il proprio. Tu Enrico lo conosci? Prima dei mercati, che gruppo sei? Però lo devo leggere, non me lo ricordo mai. Zero RH positivo. Anch'io sono zero positivo. E voi? Essere e benessere. Tutto scorre. Pantarei, diceva il filosofo greco Eraclito. Questo principio, secondo cui l'essenza delle cose è il movimento, potrebbe avere nel sangue il suo simbolo per eccellenza. Al suo movimento e alla sua efficienza è legata la nostra vita. E siamo tornati in linea con noi il dottor Aldo Zino Caligaris, in studio Enrico Pagliarini e al telefono tanti ascoltatori che hanno chiamato il nostro numero verde per parlare di un farmaco sempre verde che è il sangue, 800 24 00 24. Dottor Zino Caligaris, abbiamo parlato di gruppi sanguigni. La scoperta dei gruppi sanguigni, cioè capire che le persone avevano sangue diverso, ha rivoluzionato, forse il termine rivoluzionato è eccessivo, ma ha dato sicuramente ha aperto, diciamo, la strada proprio alla medicina trasfusionale. Perché è importante conoscere, che ciascuno di noi sappia il proprio gruppo sanguigno? Intanto è un atto, diciamo, dovuto per la tutela della propria salute e soprattutto, come è giusto, tenere sotto controllo la propria salute anche nel rispetto degli altri e delle persone con cui si dividono gli spazi e si convive. Conoscere il proprio gruppo sanguigno è utile perché qualora uno dovesse avere ovviamente una necessità, sa che può avere bisogno di un gruppo comune o di un gruppo raro e che comunque viene sempre verificato in maniera molto attenta prima di ogni trasfusione. Faccio un esempio: una coppia che intende avere dei bambini, intende avere dei figli, è importante che conosca il gruppo sanguigno sia il padre che la madre, perché se la madre, la futura mamma, è un RH negativo e il papà è un RH positivo, c'è la possibilità durante la gravidanza che il bambino, il feto, diciamo, il nascituro sia di gruppo RH positivo e possa far sviluppare alla mamma degli anticorpi, sì, che in una gravidanza successiva potrebbero causare una malattia molto grave nei confronti del secondogenito o di un terzogenito, che si chiama malattia emolitica neonatale, che poi va trattata in una situazione di estrema criticità. Questo è un esempio banale, ma ecco, è importante quindi per una coppia che si sposa, oltre che conoscersi bene per avviare un percorso, diciamo, di vita comune o comunque di convivenza, insomma, al di là poi, e soprattutto nel momento in cui fa una scelta di mettere al mondo una nuova vita, di conoscere il proprio gruppo sanguigno. Questo è un esempio, insomma, ma che dimostra l'importanza di come un gruppo sanguigno che serve a identificarci da un punto di vista proprio genetico e quindi dà questa nostra caratteristica di appartenere a un gruppo raro, piuttosto zero negativo, i gruppi RH negativi, piuttosto che a un gruppo comune come lo zero positivo, l'A positivo, ma è importante sapere, per esempio, se poi uno diventa donatore, che con il gruppo zero si è donatori universali. Ecco, cioè io vi dico, alle fan di Enrico Pagliarini, dico, è zero positivo, può donare a tutti, giusto? Mettiamo, me l'avranno detto 18 volte, ma non... aggiungiamo un dettaglio in più, anche questo fa la differenza. Pier Francesco da Reggio Calabria, buongiorno, e poi Andrea dalla provincia di Pavia, 800 24 00 24, benvenuti. Buongiorno. Pier Francesco. Eccoci qua. Siamo in linea? Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno Pier Francesco, mi dica. Sì, io chiamo per raccontare brevemente le mie esperienze di donatore di sangue. Sì. Inizia nel lontano 92 quando ero studente universitario a Pisa. Sì. E da lì costantemente, periodicamente, ho continuato sempre a donare, perché comunque sentivo di fare sempre del bene, con la consapevolezza di donare una parte di me gratuitamente senza nessun sacrificio a qualcuno che in quel momento ne ha bisogno. Sapevo dell'importanza della donazione del sangue, delle trasfusioni, per gli interventi chirurgici, per i pazienti ematologici, per i trapianti. Poi, perché parla al passato? Perché comunque, ecco, questo mi porta a dire che poi a maggior ragione ho conosciuto dopo, più avanti, per un'esperienza personale, l'importanza della donazione del sangue. Sì. Perché mio fratello è stato colpito da una violenta leucemia e quindi lì ho conosciuto l'importanza in realtà del reparto di ematologia, dove tanti pazienti quotidianamente aspettano una trasfusione di sangue, di piastrine, che fa parte di una importantissima terapia per la loro speranza di vita. Questa esperienza comunque mi ha dato ancora maggior convinzione, maggior forza e maggiore costanza nell'effettuare la donazione del sangue o delle piastrine a seconda delle varie necessità. Sì. Che il reparto del centro trasfusionale ha, e da allora soprattutto, e ancora oggi, continuo a donare, ma oltretutto con la mia azione di volontario cerco di diffondere la cultura della donazione nel mio territorio, tra i giovani. Senta, e ce la fa? Lei pensa di... è riuscito a convincere tante persone? Enrico dice, questo per me è un po' un mio limite, difficile, non difficile. È difficile. Lei ci è riuscito, Pier Francesco? Ha un segreto? Guardi, un trucco? No, un trucco. Allora, il trucco è essere assolutamente motivati, essere assolutamente convinti e avere tanta passione. Sicuramente non è una cosa, insomma, per convincere bisogna arrivare, no? Arrivare al cuore. Allora io chiedo a Pierfrancesco, intanto do tempo anche ad Enrico e a voi che siete da casa, troviamo uno slogan, una frase da spendere per tutta questa settimana per chi dona, la mettiamo naturalmente anche sulla pagina di Essere Benessere, chiediamo ad Enrico di metterla anche nella sua, ecco, una frase con cui i donatori potrebbero in qualche modo convincere le persone a fare il grande passo o a non tirarsi in poi indietro, cioè non smettere. Dottor Rozino Caligaris, le piace? Facciamo sì, questa cosa qua. Mi piace moltissimo, io ringrazio Pierfrancesco di questa preziosa testimonianza e mi permetto di dire forse altre motivazioni che sono importanti, cioè i donatori di sangue assicurano ogni anno oltre 3 milioni di donazioni tra sangue e donazioni in aferesi e ogni giorno attraverso queste donazioni si verificano quasi 9.000 eventi trasfusionali per i pazienti, che sono all'incirca 700.000 ogni anno nel nostro paese. Quindi calcoliamo quant'è l'impatto di questa donazione sulla terapia trasfusionale e sulle persone che vengono coinvolte, che non sono sempre poi pazienti appunto legati a patologie, perché parliamo sì giustamente di persone in chirurgia, sì, in ematologia, in oncologia, in medicina, e calcoliamo che 2/3 di questi pazienti spesso sono pazienti che hanno più di 65 anni, quindi pazienti anziani che per il miglioramento della qualità e della quantità delle cure ovviamente oggi hanno accesso a delle terapie che una volta erano impensabili. Per ma questo teniamo conto che la terapia trasfusionale può servire a qualsiasi cittadino in una situazione di emergenza, in una criticità. Ecco, io voglio, dottor Rozino Caligaris, intanto lei ha dato tempo ai nostri ascoltatori a pensare quello che potrebbe essere lo slogan. Mi sembra che lei punti sui numeri, il suo potrebbe puntare sui numeri perché ci ha detto dei numeri importanti da sottolineare, ma io ne voglio aggiungere uno, è la probabilità che io, una persona comune, possa ricevere almeno una trasfusione di sangue nel corso della vita è del 20%. È vero. Vero? Ecco, allora io appunto il mio slogan è potresti averne bisogno anche tu, ed è la probabilità è intorno al 20%. Enrico, tu su che cosa batteresti? Perfetto, scelgo uguale, questa. Uguale, mi copia, come dicono i bambini, mamma mi copia. Intanto dobbiamo andare a sentire, sì, Carmelo mi dice l'ora, dobbiamo andare a sentire le informazioni sul traffico e poi ritorniamo subito dopo insieme. 800 24 00 24, del sangue spesso abbiamo paura anche solo a vederlo, ma a volte vederlo aiuta. Ne parliamo tra poco con la nostra dottoressa Giovanna Luini, medico responsabile della comunicazione scientifica di IEO, che già in linea ci aspetta. Dottoressa, buongiorno. Sì, certo. Essere e benessere. Ora passo a presentarvi la futura Mrs. Exclusive, Grace Campbell. Eccola qua, guardatela! Non è bellissima! Ha appena donato il sangue e ne ha ancora abbastanza per arrossire come una mammola. Eh sì, dietro ogni grande uomo c'è una donna che alza gli occhi al cielo, gente. Sono Bruce Nolan per Eyewitness News con tutti gli amici qui della donazione di sangue che vi ricordano... Sì, il tuo miracolo! Siamo di nuovo insieme, in linea con noi abbiamo la dottoressa Giovanna Luini ed è qua in studio Enrico Pagliarini, al telefono il dottor Rozino Caligaris. Voi dovete pensare a chiamarmi all'800 24 00 24. Oggi ci inventiamo uno slogan, una frase, un modo per... Potresti averne bisogno anche tu. Io vorrei mettere questa cosa qua del 20% anche, che secondo me aiuta, o no, dottoressa Luini? Aiuta molto, io sono donatore di sangue e di midollo, quindi credo che tutti possiamo fare tanto e insomma, allora, poi devo dire veramente un aiuto assoluto, gratis e di base. Lo slogan ne stanno arrivando, dona sangue, vedi che ti conviene, avrai tanti controlli gratuiti. Ma è la colazione. È la colazione, anche quella possiamo, possiamo metterla, ma possiamo tutti insieme fare di più e possiamo continuare a farlo, perché possiamo poi trasferirci sulla pagina del Facebook di Essere Benessere, magari ci ospita anche Enrico. Ma intanto, dottoressa Luini, sì. del sangue, noi già ci sono delle persone che alla sola vista del sangue svengono, e di questo è uno dei timori, delle paure che li allontana dalla donazione. Ma in realtà io vorrei parlare con lei invece di quel sangue che quando vediamo può aiutarci in qualche modo a capire qualcosa di più della nostra salute. Ad esempio, è una spia, un segnale, no? Quando noi perdiamo sangue dal naso, vuol dire qualcosa. Quando spazzolandoci i denti le gengive sanguinano, può essere fastidioso, però è il sangue, certo, che ci dice occhio. C'è poi anche un tipo di sangue che, cioè, non è sempre lo stesso, che si nasconde, ma che noi dobbiamo cercarlo, ed è il sangue occulto nelle feci. Allora, io ho preso tre situazioni, ma perché vorrei che lei ci aiutasse a leggere anche questa modo, no, di vedere il sangue, che tante volte non doniamo per paura, e che, perché ci fa paura, ma che in realtà, come sempre, ci dà delle informazioni vitali. Sì, è vero. Il sangue, la regola è ovvia, la conosciamo. Il sangue deve stare dentro, non fuori. Quindi è chiaro che quando si presenta sangue, per esempio sulle gengive, appunto, quando ci laviamo i denti, oppure scende sangue dal naso, o ancora quando sangue viene riscontrato nelle feci con un semplice test, qualcosa non va. Ora, senza drammatizzare, può trattarsi, per esempio nel caso delle gengive o del naso, di un piccolo problema che i medici definiscono locale, cioè un problema che sta lì alle gengive o sta lì dentro il naso. Però è anche vero che qualche volta il sangue che esce dal naso oppure dalle gengive indica, per esempio, un disordine del sangue. Se volete possiamo parlare di disordini delle piastrine, che sono quelle parti del sangue che servono per farlo coagulare quando serve, no? Allora, perdere sangue dalle gengive ripetutamente in modo eccessivo oppure dal naso può essere una spia di qualche disordine del tutto risolvibile del sangue stesso, e allora dobbiamo andare a riferirlo al medico, e il medico ci farà fare gli esami giusti. Come dicevate anche voi, il sangue occulto nelle feci è un esame importante, perché il sangue è occulto, quindi non lo vediamo, non ci accorgiamo. Se viene trovato, non è che necessariamente indichi il tumore all'intestino, indica però che bisogna andare a approfondire. E allora si possono trovare alcune malattie infiammatorie dell'intestino, per esempio, oppure polipi benigni, ma anche si possono trovare polipi che si sono trasformati in tumore o si stanno trasformando, e allora quella è una diagnosi precoce di tumore all'intestino, e sappiamo bene che la diagnosi precoce salva la vita. Quindi avere paura quando si vede il sangue non ha molto senso, perché questa paura può portarci a ritardare una diagnosi che invece può aiutarci a vivere bene e a guarire. Grazie dottoressa Luini per essere stata con noi. Io le auguro una buonissima giornata e spero che torni presto a trovarci. Certo, grazie a voi. Andrea, buongiorno, dalla provincia di Pavia. Sì. Ha pensato a uno slogan per noi? Uno slogan, si può trovare uno slogan un po' provocatorio, controcorrente. Dai, prova. Tipo, fai qualcosa per te, sii egoista, dona il sangue. Noi li scriviamo e poi continuiamo a scriverli anche. Ti piace, Enrico? No. Non gli piace. Sono Aldo, sincero, no? Zino Caligaris? Io direi il sangue, un dovere donarlo, un diritto trovarlo. Bravo, però, bravo, questa qua la segniamo. Andrea, allora, a me la sua piace comunque. No, perché non ho apprezzato il fatto, quando uno dona il sangue, era chiaramente provocatorio, è egoista, nel senso che quando uno dona il sangue si sente talmente bene che uno dice lo faccio egoisticamente per sentire. Bravo, anche bene. A me, io l'avevo colta, ma Enrico sta con me. Comunque niente. No, beh, ci sono delle mattine però che non è che io sono proprio contento di stare 2 ore attaccata a una macchina, però con un ago che è il doppio o il triplo di uno normale. Adesso, ecco, giusto per... Andrea. Sì. No, per dire... Andrea. Soprattutto io quando sono a metà. Sono un donatore periodico di aferesi al Policlinico San Matteo di Pavia, e volevo approfittarne anche per ringraziare tutto il personale, i medici, infermieri, insomma, che comunque li trovo molto professionali, e anche l'ambiente è un ambiente che ti mette a tuo agio, ti rilassa. Senti, la colazione com'è, Andrea? La colazione è quella che danno le macchinette. Quindi, ah, vedi, ad Enrico Pagliarini va meglio. Sì, sì, perché allora, io dono o all'Avis di Modena, io sono affezionata alla mia città, quindi, o al Policlinico. Allora, l'Avis c'è proprio il bar interno, quindi è una meraviglia, no? Il Policlinico effettivamente ci sono le macchinette. Però anche in quel caso le ragazze, sono le infermiere, sono molto premurose, quindi e carine. Poi a metà, magari a metà ti portano un succo di frutta. Vedi, per questo tu stia attacchi alla macchina per due ore, vero, dottor Rosino Caligaris? Così posso dire ore, una cosa prima di chiudere? No, che è una cosa che mi sorprende tutte le volte che vedo. Allora, non so quanti sanno che i componenti, non so se tutti, sono gialli del sangue. Mm-hmm. Cioè il sangue uno vede che è rosso, sì. E io mi stupisco a vedere le piastrine o il plasma che sono gialli. Giallino, è vero. Giallino. Giallino, corregge. È un liquido acquoso con in sospensione delle proteine. Quindi non, la parte rossa del sangue che noi vediamo sono i globuli rossi che contengono ferro, contengono emoglobina e che costituiscono il 40-45% dell'intero volume del sangue. Il resto è per un 90% è acqua. Allora, io scusate, questo è, ma a settembre ripartirà una mostra, vero dottor Rosino Caligaris? Si chiama Globulandia, sì. Ed è una mostra che permetterà proprio un viaggio all'interno del sangue, una mostra che ci farà conoscere il sangue attraverso i cinque sensi, ma ne parleremo a settembre quando riprenderà. Intanto io voglio leggervi alcuni messaggi che mi stanno arrivando e che riporteremo su Facebook. Che continuo a invitarvi a scrivere. Presta il tuo sangue, vi piace, Enrico? Questa è buona, sì. Dottor Rosino Caligaris? Sì, beh, presta, sì, c'ha questo concetto che poi ci deve essere un ritorno, speriamo di no, diciamo. Va bene. Beh, diciamo che la donazione lo segniamo. È gratuito, forse vabbè, più. Presta, più io ve lo dico, voi scegli la vita, scegli di essere donatore. Bello. Sì. Sì, molto classico. Molto classico. Sì. Donare il sangue, l'unico investimento davvero sicuro. Oggi questo... non ti... Ah, non è finita. Ada ha scritto, eh? Donare il sangue, due punti. L'unico investimento davvero sicuro. Oggi non ti impoverisce e domani ti renderà il 20%. Bellissima. Brava. Brava. Carmelo, ci metti un applausino? Sì. No, ormai abbiamo applaudito noi. A me questa piace questa molto. Questa mi piace, sì, sì. Dottore Rosino Caligaris, direi che Ada... Sì, sì, ha colto il significato proprio di questa gratuità del sangue e comunque della possibilità poi di diventare un ricevente qualora... E infatti devo dire che è stata accolta subito perché c'è scritto presta il suo sangue, forse è lo stesso, sì. Se ti va male ti sarà ridato con gli interessi, però è un pochino già negativa, sì, invece quella di Ada sfortuna, ci piace diciamo di più, così, vero? Io non so, forse abbiamo il tempo per sentire Valerio dalla provincia di Bergamo, non credo. Valerio? No. La saluto perché mi dicono 30 secondi. Grazie al dottor Rosino Caligaris, grazie ad Enrico Pagliarini. Grazie a voi. Se avete dei dubbi, trasferitevi su Facebook e chiederemo all'equipe del dottor Rosino Caligaris di rispondere a tutte le vostre domande. Noi ci sentiamo lunedì. Buonissima giornata da Nicoletta. Essere e benessere.